Quando leggerai questa mia lettera, io sarò altrove alle pendici di questa giustizia terrestre. Giudica colpevole e mi condanna per un fatto di cui tu sola sai la verità. Ecco, poco importa il giudizio di questo mondo. La tua gratitudine mi basta per affrontare la frontiera dell'invisibile sentiero. Il mio sacrificio sarà il nostro segreto. Per quanto io non ucciderò alcun momento che ha fatto di noi un unico concerto. Me lo domandasti di annientare, sbagliando si impara a sbagliare. Uno sbaglio cicatrizza una vita, ed io sono pronto a farla finita. Parlare in verità conta poco se dici tutto, poi ancora di meno, perché si vive muti, tramuti, in questa stanza rivivo minuti. Trascorsi ad amarci per rendere un senso alla vita a risplendere, per sentirci più vivi, contenti, soli in mezzo alle spade taglienti. Quando l'amore domanda, rispondo, presente anche se in fondo. Ho dovuto annegare nel pianto per un atto di cui oggi mi pento. Quando in mano avrai questo foglio, io sarò con la corda nel collo. Solo Dio saprà dirmi se è giusto per amore fare quello che ho fatto. Tu ragazza dallo stupro umiliata, non mi piangere, restami sposa, che il silenzio cui andiamo incontrando sarà splendido, più bianco del bianco, ad avere una mano assassina. non mi piange, la mia mano non trema, ma il pensiero di lasciarti da sola se mi uccide più che questa galera che per poco mi ospita ancora. Poche ore e tra poco è finita. Ti avrò dato la mia vita, o mia sposa. Della mia morte fanne un giorno una rosa.